due donne fanno schifo, passando fricchettone, la tua cura è lo scarpone. Di far politica alle manifestazioni, giocando coi birilli, con slogan da imbecilli, che balli per la pace, con le bandiere al vento, ma qui l'unica pace si conquista combattendo. Odio i free, odio, odio i free, odio i free, odio, odio i free. Nella polvere diversi da gitano, passi la tua vita con mille canne in mano, non curi il tuo aspetto, le tue nonne fanno schifo, passato fricchettone, la tua cura è lo scattone. Odio i free, odio, odio i free, odio i free, odio, odio i free. Free!